Mia cara Lu, scriveva Nietzsche nel 1882, il mio pensiero, no, anzi il suo pensiero, gli dava del lei, di una riduzione dei sistemi filosofici agli atti personali dei loro autori, è veramente il pensiero di un'anima sorella. Stavo dicendo un'anima gemella. Anima sorella, dice Nietzsche. Non si capisce bene cosa volesse dire, quale fosse l'ardita tesi della signorina Lou von Salomé in proposito, ma siccome cosa volesse dire Nietzsche, cosa volesse Nietzsche perlomeno dire a Lou e cosa volesse da lei è invece chiaro, si potrebbe anche essere tentati di interpretare l'asserzione come un'abile mossa retorica, diciamo una captatio benevolentiae a fini sessuali. D'altronde mi parrebbe difficile porre rapporti fra certi elementi di un sistema filosofico e altri elementi della vita privata del filosofo che l'ha formulata. Fra l'atomismo di Epicuro e le sue frequenti diarree, per esempio, mi pare azzardato porre qualsiasi rapporto, e fra i tanti comunque non saprei proprio escogitare un criterio per sceglierne uno. Così del fatto che, non so, che Aristippo fosse un noto frequentatore di bordelli, che Pitagora non volesse attraversare i campi di fave, che Assiotea di Fliunte, allieva di Platone, si vestisse con abiti maschili, o che Teofrasto soffrisse di una noiosissima ed irrefrenabile forma di meteorismo, sinceramente di questi fatti non me la sono mai sentita di approfittare per giudicare buono o men buono il modo di impostare il problema della conoscenza da parte delle persone cui questi fatti sono stati attinenti. Un'idea del genere, tuttavia, fra i filosofi del nostro tempo riaffiora. Feyerabend è morto l'11 febbraio del 94 e ha fatto appena in tempo a concludere una curiosa autobiografia che ha intitolato Ammazzando il tempo. In essa auspica a più riprese che l'opera scritta non venga chiamata a rappresentare la ricchezza della persona e si ribella alle riduzioni letterarie in un modo diciamo singolarmente arguto e dissacrante. Non solo inserisce nell'autobiografia una fotografia che lo ritrae mentre in cucina lava i piatti, attività in cui non abbiamo visto mai impegnati né Kant, né Hegel, né Croce, né Popper, eccetera, eccetera, ma smentisce categoricamente anche se stesso. Racconta che a un certo punto della sua vita si era reso conto che c'erano due tipi di tumori da estirpare, la filosofia della scienza e la filosofia in generale, epistemologia, etica e via via tutte le varie etichette specializzande. Ovviamente nel corso dell'intera sua esistenza e dell'opera sua poi si è ben guardato dall'estirparli proprio questi due tumori, si è accontentato con grande lucidità e acutezza non comune a dire il vero, si è accontentato di mostrarne le magagne più vistose, di smascherare la protervia e la presupponenza del razionalismo e di cercare riparo in un comodo scetticismo, in fin dei conti, o relativismo che dir si voglia. Non a caso si parla di Feyerabend come dell'anarchista epistemologico, di colui per il quale tutto va bene, no? Emulo di quei vecchi scettici greci alla Pirrone che amavano dire tanto è lo stesso. Invece, al suo appassionato lettore che giunga fino a pagina 171 di questa sua autobiografia, gli tocca leggere che obiettivismo e relativismo sono non solo insostenibili come filosofie, ma anche cattive guide per una collaborazione culturale fruttuosa. Esattamente il contrario per quanto concerne il relativismo di quanto sembrava aver pensato o scritto per tutta la vita. Orbene, questa sua correzione di rotta, questo ripensamento estremo, è rappresentato al meglio dall'inserto culturale della domenica del Sole 24 Ore. Domenica scorsa, nel frontespizio, in alto, c'è una fotografia di Feyerabend, non quella mentre sta lavando i piatti, ma una più nobile, scattata a Berkeley nell'84, ed è annunciato l'articolo interno. Addio al realismo è il titolo. E io mi compiaccio, mi sembra che giusto, Feyerabend ha combattuto questa forma autoritaria di filosofia. Bene, ma a pagina 29 il titolo a tutta pagina questa volta è Addio al relativismo. E correttamente vi si parla del suo estremo ripensamento e vi si anticipa uno scritto inedito in proposito. Con il che sì, il Sole 24 Ore fa contenti tutti. Chi stima Feyerabend per le sue idee antirealiste e chi vorrebbe stimarlo per le sue tardive idee antirelativiste. contenti come Feyerabend stesso, che diversamente dai suoi libri riesce a dire praticamente nello stesso posto una cosa e il suo contrario.